Siamo alla soluzione del quiz. Ve lo ricordate perché le coperte che vediamo usate nelle azioni di pronto soccorso sono argento e oro? La risposta è piuttosto semplice. A un ferito bisogna garantire il massimo per quanto riguarda il mantenimento della temperatura corporea. La cosiddetta coperta isotermica può aiutare l'organismo a mantenere o disperdere il calore grazie agli strati di materiale proprio argentato e dorato di cui sono rivestiti i due lati di questa coperta. Il rivestimento argentato tende a riflettere le radiazioni termiche prodotte dal corpo e quindi viene usato all'interno. La colorazione dorata invece serve a catturare le radiazioni termiche che sono nell'ambiente e quindi è l'esterno delle coperte che è dorato. Questa è la risposta.